Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, il viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Sì, ci fu un tempo in cui eravamo quasi tutti agricoltori, qui in Europa. Benvenuti e benvenute e ascoltiamo i titoli di questa puntata di Medius. Gli europei discendono dagli agricoltori della mezzaluna fertile, è quanto emerge da un nuovo studio di genetica di popolazione. Camminare per strada e produrre energia. Un dispositivo introdotto nei tacchi potrebbe generare elettricità, ma le sue applicazioni potrebbero essere ben altre. Come guardiamo i quadri e come dormiamo. Due attività diverse che ci dimostrano, tuttavia, certe costanti della nostra mente. Una mostra spaziale. Non è un aggettivo, ma proprio il titolo dell'evento progettato dal Museo Tridentino di Scienze Naturali. Si è appena conclusa a Milano una riunione di scienziati e tecnici provenienti da tutto il mondo e dedicata ai problemi del disarmo nucleare, in preparazione di un meeting che si terrà a New York in maggio. John Brockman è l'agente letterario dei più quotati autori di libri scientifici ed anche un abile creatore di stimolanti dibattiti. L'abbiamo intervistato. Ve l'ho appena annunciato. In Europa un tempo, molto tempo fa, eravamo agricoltori. Chiara Albicocco vi spiega ora come questa affermazione è dimostrabile. Il maschio agricoltore più sexy ed attraente di quello cacciatore-raccoglitore. Non è il titolo di una rivista scandalistica, ma è una delle conclusioni di uno studio che si sta portando avanti sulle origini degli europei. Ma andiamo con ordine. Allora, il primo dato che emerge da una ricerca britannica è che l'uomo europeo ha origine dagli agricoltori provenienti dall'Oriente, e in particolare dalla mezzaluna fertile. Alla ricerca ha preso parte anche un esperto italiano in fatto di genetica di popolazione, che è stasera qui con noi, il professor Guido Barbujani. Buonasera, professore. Dunque, professore, le conclusioni a cui siete giunti analizzando il DNA e in particolare quello del cromosoma Y, quindi quello dell'uomo, di 2574 uomini, è così? Sì, è così. Che gli europei discendono dagli agricoltori della mezzaluna fertile. Ci deve spiegare. Beh, naturalmente non tutti gli europei discendono dagli agricoltori della mezzaluna fertile. Diciamo che quando si parla della storia della popolazione europea ci sono due modelli, due idee che sono entrambi compatibili con i dati archeologici. Le prime persone fatte come noi sono arrivate dall'Africa intorno a 45.000 anni fa in Europa. A quell'epoca l'Europa non era spopolata, era abitata da un'altra specie umana, dall'uomo di Neanderthal. E con ogni evidenza noi con l'uomo di Neanderthal non ci siamo mescolati. Nel giro di 10.000 anni l'abbiamo rimpiazzato. È scomparso. I veri europei, gli uomini di Neanderthal, sono spariti, sono rimasti i veri africani che siamo noi. Intorno a 10.000 anni fa poi è successo probabilmente il più importante cambiamento culturale della storia dell'umanità. L'umanità ha smesso di raccogliere il cibo e di cacciare animali come fonte primaria di alimentazione ed è passata alla produzione di cibo, con l'agricoltura e l'allevamento degli animali. E quindi forse anche ad una vita più sedentaria, più raccolta in piccoli centri. È cambiato tantissimo, è cambiata la sopravvivenza dei bambini, è cambiata la forma delle comunità, perché si è passati da piccoli gruppi nomadi a delle comunità stabili sempre più grandi, e ci sono dati archeologici che dimostrano come l'agricoltura si sia diffusa a partire dalla cosiddetta mezzaluna fertile, cioè il Medio Oriente, poi l'Anatolia e poi l'Europa. Ma ci sono due possibili interpretazioni di questo dato. Uno è che in qualche modo si sia spostata la cultura, cioè che la gente sempre più a ovest abbia imparato, abbia appreso dai contadini che stavano più a est come si faceva a coltivare la terra e che quindi si sia trattato di un'ondata di cambiamenti culturali e basta. Quindi non ci sia stato proprio una migrazione fisica di persone, ma semplicemente di nozioni, di tecniche. Di nozioni. E l'altra naturalmente è che siano spostate invece le persone, gli agricoltori. Naturalmente è ovvio che sarà successo qualche cosa di intermedio, è ovvio che in certi posti saranno arrivati gli agricoltori, in altri posti i vecchi cacciatori avranno adottato l'agricoltura, ma ha senso chiedersi quale dei due fenomeni sia stato predominante. E il nostro studio fa parte appunto di questo tentativo di capire se i nostri antenati di 11.000 anni fa erano prevalentemente dove siamo noi adesso o erano prevalentemente nel Medio Oriente. Ebbene, quindi sembrerebbe che si siano spostati fisicamente. fisicamente. Sì, ecco, questo non è una scoperta nuova. Pensi che tutto questo campo della genetica di popolazione umana è nato da un lavoro nel 1978 di Luca Cavalli Sforza, sì, che appunto per primo ha proposto che ci sia stata un'ondata migratoria, diffusione endemica è il termine tecnico, che si è diffusa a partire dal Medio Oriente portando con sé i geni degli agricoltori, le tecniche degli agricoltori e, secondo alcuni, addirittura le lingue degli agricoltori. Secondo un archeologo inglese, Colin Renfrew, l'indoeuropeo è arrivato con la stessa ondata di persone. Quindi le vostre analisi genetiche in realtà supportano, diciamo, questa teoria? Certo, sono circa 30 anni che si litiga su queste cose e direi anzi che Luca Cavalli Sforza, che è stato il primo a proporre il modello neolitico, negli ultimi anni ha smussato molto le sue posizioni. Ha un po' cambiato idea. Beh, non direi che ha cambiato idea, però è diventato più pluralista, mentre io mi ritengo un estremista del modello neolitico e soprattutto i miei avversari mi ritengono un estremista del modello neolitico. Fatto sta che questi risultati di questo lavoro diretto da Mark Joblin dell'Università di Leicester sono risultati interessanti perché fanno vedere che la forma più comune di cromosoma Y in Europa, un cromosoma che è portato in quella forma da 110 milioni di europei, ci fa pensare veramente di avere un'origine nel Medio Oriente, di essersi diffuso poi negli ultimi 10.000 anni. Ora veniamo a un altro aspetto del vostro studio, o comunque che si evince dallo studio, perché voi avete in un certo senso anche rapportato il materiale genetico invece delle femmine del Neolitico, che sembrano, sì, derivare invece dagli uomini raccoglitori. Guardi, sì, quello che ha detto lei, che gli agricoltori erano più sexy dei cacciatori, sì, raccoglitori, io mi permetto di non sottoscriverlo, insomma, perché le cose sono complicate. Se si va a studiare il pezzo del nostro genoma che è trasmesso solamente dalle donne, il DNA mitocondriale, non solo in Europa ma in tutto il mondo si trovano delle cose molto diverse da quelle che si trovano nel cromosoma Y che è trasmesso solo dai maschi. Sì, infatti questo sembrerebbe l'opposto così a prima vista. Ci sono delle grosse differenze e questo ci fa pensare non solo a noi ma anche a quelli che non la pensano come me, che la vicenda evolutiva dei maschi e delle femmine della nostra specie sia stata abbastanza differente. Allora bisogna chiedersi in che cosa ci sono le differenze. Una possibilità, è stato proposto da Luca Cavalli Sforza anche questa alcuni anni fa, è che all'interno del DNA mitocondriale, quello trasmesso per via femminile, non si trovino gli stessi segnali che troviamo nel cromosoma Y, perché al momento del matrimonio le donne si spostano generalmente nella località di residenza del marito. E quindi mentre nel cromosoma Y troviamo una traccia delle grandi migrazioni umane, Nella donna troviamo una traccia delle migrazioni matrimoniali che però sono disordinate nello spazio. Certe volte la donna si sposta a est, certe volte si sposta a ovest, certe volte a nord, certe volte a sud. Sì, noi diamo un po' per preso come ipotesi fissa che la donna si spostasse seguendo il marito un po' come succede adesso forse. Certo, un po' come succede abbiamo adesso. Abbiamo dei dati per dirlo in realtà, professore. Beh, ci sono delle comunità, per esempio in Thailandia, ci sono piccole comunità che si possono studiare, ma per esempio in Thailandia ci sono delle comunità in cui si sposta la donna e delle comunità in cui si sposta l'uomo. Ed effettivamente troviamo una conferma di quello che le ho detto prima, cioè dove il sesso che si sposta in pratica non lascia una traccia geografica ben distinta. E invece il sesso che resta fermo e si sposta solo per le migrazioni principali lascia un segno sulla mappa che noi riusciamo a ricostruire. Non è detto che sia solo questo, c'è un altro studio che abbiamo fatto invece noi nel 2004 qua a Ferrara, nel quale abbiamo provato a pensare se non ci siano altre spiegazioni per questo risultato e salta fuori che se l'umanità si è comportata per molti millenni come i leoni, in cui c'è un maschio dominante che si riproduce con la maggior parte delle femmine e gli altri maschi si riproducono poco o per niente, salta fuori lo stesso risultato. Io adesso non voglio dire che abbiamo ragione noi o che ha ragione Luca Cavalli Sforza, secondo me anche in questo caso ci sono state varie possibilità e l'umanità ne ha esplorate tante. Di fatto però quello che salta fuori è che se andiamo a seguire i dati che ci derivano dal DNA mitocondriale trasmesso per via femminile, non troviamo una struttura molto ordinata, mentre se andiamo a studiare non solo il cromosoma Y, ma anche tutto il resto del nostro genoma, generalmente troviamo un andamento geografico che riusciamo a interpretare e che ci sembra riprodurre le migrazioni umane a partire dall'Africa poi a colonizzare tutti gli altri continenti. Grazie professore, allora veramente buon lavoro. Ma grazie a voi, arrivederci. Ciao Paola. Ciao, buonasera. Paola che raggiungo sempre via Skype. Parliamo di scarpe. scarpe e buone notizie. Buone notizie sulle scarpe? Beh, buone notizie per le energie alternative, con le scarpe, e non solo. Non solo, infatti. So un po', ma poco. C'è un gruppo di ingegneri a Princeton, capitanati da Michael McAlpin, che è riuscito a costruire un materiale, una pellicola di gomma, che genera elettricità. Non è proprio gomma, diciamo. È un nanomateriale composto da dei mini nastri di ceramica di un materiale che si chiama PZT. E questi mini nastri sono incollati su dei fogli di gomma di silicone. Aspetta che ripeto bene la sigla. PZT, Palermo Zoe Teramo. Taranto? Facciamo Taranto. PZT. No, va bene. Ecco, mi dirai, bellissimo questo materiale con i mini nastri di ceramica, ma cosa ce ne facciamo? Questo materiale in realtà è costituito da dei cristalli piezoelettrici, un po' come il quarzo, cioè che generano una tensione elettrica quando vengono compressi o decompressi. Il fenomeno in fisica è noto da tempo, cioè c'è dell'elettricità che si può generare con alcuni materiali attraverso una deformazione meccanica, anche piccola. Sì, esatto, basta una piccola deformazione, come ben detto, e le cariche di segno opposto si posizionano su due facce del materiale e quindi creano una tensione elettrica. Esatto. E con questa differenza di potenziale, ta-dam, abbiamo la nostra corrente, elettricità. Allora, tornando alle scarpe, perché certo, potresti, ti carichi il cellulare mentre cammini? Sì, per esempio uno si può caricare il cellulare o l'iPod camminando, facendo jogging. E un altro degli aspetti molto interessanti è che questo materiale è biocompatibile, per cui si stanno pensando anche ad applicazioni mediche. Ad esempio sfruttare il movimento, la respirazione, il movimento dei polmoni per ricaricare i pacemaker. Ecco, questa è un'applicazione estremamente interessante perché i pacemaker invece sono alimentati a batteria e ogni tanto vanno sostituite. Esatto, così si eviterebbe la sostituzione della batteria. Cioè basta un semplice movimento meccanico che è quello del torace che si espande e poi invece si contrae e questo è sufficiente a generare l'elettricità. Esatto, questo perché questo materiale è molto efficiente. Abbiamo detto per esempio il quarzo è un altro esempio di materiale piezoelettrico, però questo nuovo materiale è 100 volte più efficiente, per cui converte l'80% dell'energia meccanica in energia elettrica. Si pensa anche che questo materiale possa avere delle dimensioni più grandi, quindi non soltanto qualche centimetro quadrato o meno che puoi mettere nelle scarpe o puoi appoggiare, esatto, no? sul torso appunto per alimentare un pacemaker, potrebbe essere anche qualcosa di molto grande, quindi a quel punto le applicazioni diventano tantissime. Sì, stanno proprio pensando al modo per estendere questi fogli di questa pellicola di gomma e in questo modo le applicazioni sono veramente infinite. Quindi è un'ottima notizia per il mondo dell'energia e per tutti noi. Certo. Ciao Paola e buon lavoro. Buonasera, passo e chiudo. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al nostro quiz, il gioco, preparatevi. In un servizio che sentirete fra pochissimo, subito dopo il quiz, si parla di un esperimento nel quale si va a capire come noi umani guardiamo una porzione di realtà che abbiamo davanti. Può essere una faccia, una casa, un quadro. Come si muovono i nostri occhi nell'atto di osservare, per la precisione, appunto, una scena? Che dati si ricavano da questo esperimento? Prima possibile risposta. Si ricava che abbiamo tutti lo stesso modo di perlustrare la stessa scena, ci scriverete tutti. Oppure che ci sono forti differenze fra soggetti diversi, ci scriverete forti. Che c'è una curiosa differenza fra uomini e donne e ci scriverete genere, differenza di genere. Dove scriverete? Con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Libera Scienza in Libero Stato di Margherita Hack, edito da Rizzoli. In collaborazione con IBS.it. Adesso esco dallo studio, vado indietro nel tempo, cosa che per noi di Mebius è abbastanza semplice fare, e vado a Verona quando si è tenuto infinitamente una serie di giornate con tanti seminari e piccoli convegni dedicati alla mente. E vado a intervistare Maria Concetta Morrone, neuroscienziata che ha partecipato a uno di questi seminari su spazio e tempo della mente, alla quale voglio chiedere alcune cose che lei ha detto nella sua presentazione che riguardano come guardiamo delle scene, come i nostri occhi si muovono quando guardiamo qualcosa e precisamente un quadro. Notiamo che lo sguardo si dirige in una maniera abbastanza balistica su alcuni punti che sono i punti salienti, non solo da un punto di vista visivo perché sono più ricchi di informazione, per esempio hanno più un maggiore contrasto cromatico, un maggiore contrasto di luminanza o perché c'è un movimento, perché spesso non abbiamo, nella vita normale gli oggetti si muovono, ma si spostano anche dove c'è più informazione cognitiva, quindi è più importante per l'osservatore, tipo i volti, tipo le macchine se siamo nel mondo esterno, tipo un qualcosa particolarmente gradevole da un punto di vista estetico. È come se noi lo esplorassimo ricopiando un modello interno di quell'opera d'arte. Sappiamo che stiamo guardando una folla e vogliamo esplorare i singoli volti, per esempio. Però c'è un fatto singolare, e cioè, per esempio, nell'esplorare una persona, guardiamo il volto, poi passiamo su una finestra, poi ritorniamo su quella persona e ne guardiamo i piedi. Il problema è che però la nostra mente riesce a mettere insieme poi tutte le immagini e non è che di quella persona ci è rimasta solo la testa, riusciamo a ricostruire il suo corpo. Ecco, e questo è il problema della stabilità percettiva, come riusciamo a riconoscere, ricostruire l'immagine nel suo globalità, quindi tutto il quadro, partendo da piccole snapshot piccoli flash di piccoli di dettagli o di parte importante. Quindi come facciamo a sapere che fra la testa e i piedi c'è esattamente 2 metri e fra il braccio sinistro e il destro ci possa essere un'altra persona che quell'osservatore osserva. Perché la visione non è una pennellata da destra a sinistra, si muove casualmente e poi il cervello rimette insieme. E poi il cervello deve ricostruire. È un puzzle in cui abbiamo solo piccoli campioni qui e lì. E questo puzzle sicuramente viene ricostruito con informazioni a priori che noi abbiamo, che sono conservate in memoria, ma ci deve essere anche una ricostruzione che avviene online mentre lo osserviamo. Queste perlustrazioni che noi facciamo, che il singolo soggetto fa su uno stesso quadro, se poi mettete insieme diversi soggetti, risultano abbastanza costanti? Risultano abbastanza costanti, è cioè, sorprendente. Guardiamo tutti un po' lo stesso modo. Guardiamo tutti un po' lo stesso modo, e questa è anche un'applicazione da tipo pratico, tipo proprio recentemente, per esempio, in una mostra in cui sono stati in un expo di auto, era buffa, hanno misurato i movimenti oculari di macchine nuove presentate e i costruttori di macchine andavano direttamente a vedere i dettagli che erano stati cambiati in quel modello, l'osservatore normale guardava i punti già noti, conosciuti, che erano i punti che rispondevano meglio al senso estetico medio di una popolazione. E già che ci sono, resto sempre a Verona e chiedo a Luigi De Gennaro, psicologo dell'Università La Sapienza, qualche cosa di molto particolare, un esperimento che lui e il suo gruppo hanno fatto sul sonno. Nella sua presentazione lei ci ha fatto vedere i risultati di un esperimento che è stato effettuato su gemelli monozigoti, gemelli di zigoti, quindi i gemelli che hanno un patrimonio genetico assolutamente identico e quelli che invece lo condividono a metà. Da questo esperimento, che vorrei adesso lei ci descrivesse, otteniamo delle indicazioni molto interessanti su quelli che possono essere gli elementi di similitudine e gli elementi di differenza. Com'è strutturato però l'esperimento? Quando dobbiamo solo studiare il sonno, registriamo necessariamente l'attività elettrica cerebrale, quindi poniamo dei sensori, in genere sono di metallo nobile, di oro, sul cranio, in corrispondenza alle diverse aree della corteccia. Danno luogo, con diverse tecniche, a quello che si chiama comunemente elettroencefalogramma, ai più è noto. Ci sono altre cose che registriamo, l'attività muscolare, perché nel sonno REM siamo paralizzati, quindi abbiamo atonia dei muscoli. ci sono la registrazione dei movimenti oculari, perché sempre nel sonno REM ci sono i movimenti oculari, ma sostanzialmente poi la cosa che più descrive il sonno è l'attività del cervello. In generale, quando chi fa ricerca scientifica si pone un problema di genetica nell'uomo, quello di confrontare i gemelli cosiddetti monozigoti, cioè che nascono da un identico zigote, da un identico uovo, cioè che hanno il 100% dei geni condiviso uguale, contro gemelli dizigoti, quindi fraterni, che hanno solo il 50%. È il modo classico per cercare di studiare aspetti genetici di un problema. Il problema specifico di cui ci siamo occupati è quello dell'attività elettrica del cervello durante il sonno. La domanda era quanto e se l'attività elettrica della corteccia cerebrale dell'uomo avesse o meno una codifica o presentasse delle caratteristiche di tipo genetico. E quindi sostanzialmente quello che abbiamo fatto, abbiamo segregato, si potrebbe dire, in un ambiente controllato, in un laboratorio del sonno, per 4 giorni e 4 notti dei gemelli, registrandone l'attività corticale. La sintesi più semplice di tutto lo studio è che due persone diverse, però gemelli monozigoti con le caratteristiche che dicevo prima, dormono dal punto di vista della corteccia cerebrale, dalla sua attività elettrica, in maniera così corrispondente e così sovrapponibile, tanto quanto uno stesso individuo in notti diverse. Quindi due diversi che sono identici esattamente come noi siamo identici a noi stessi ogni notte. Mentre invece i dizigoti presentano delle diversità significative. Assolutamente sì, o meglio significativamente diversi come la maggior parte delle persone. Abbiamo appena visto in un altro campo che è quello della visione, come osservando per esempio un quadro fatto di tanti particolari con delle facce, delle persone, degli oggetti mobili dentro una stanza, per esempio una finestra, un camino, però il modo di perlustrare il quadro che noi abbiamo, insomma, che qualunque soggetto ha posto a sperimentazione, e quindi come i suoi occhi percorrono appena vede questo quadro tutta la superficie, tutta la struttura, sono abbastanza identici fra i soggetti più diversi. C'è qualcosa che possiamo dire anche riguardo al sonno, cioè effettivamente se voi misurate, fate esperimenti su persone molto diverse, tante, vediamo proprio dei tratti comuni forti? Si può rispondere cominciando a parlare proprio del quadro. Dipende, cioè è ovvio che persone, parliamo ancora di visione, persone diverse messe di fronte allo stesso quadro hanno strategie di scansione in massima parte simili. Non vuol dire necessariamente che il sistema visivo e il sistema di movimenti oculari di diversi individui è identico, ma può anche voler dire, e verosimilmente questo è, che ha caratteristiche in cui si esprime simili, poi che il quadro, il materiale visivo, in questo caso qua il mondo, l'immagine, ha delle sue regole prepotenti, cioè se noi vogliamo cogliere l'informazione fondamentale è necessario che andiamo a guardare 3-4 cose significative. Vale per un quadro, vale per un volto umano che non a caso viene ispezionato in maniera standard, occhi, naso, bocca, sono le cose che tipicamente ispezioniamo. E torniamo al sonno. Ogni individuo ogni notte, tranne che non sia patologico, fa sempre la stessa cosa e la fa allo stesso tempo. Io riesco a volte a predire, quando gioco con gli studenti, quando un paziente, un individuo andrà in fase REM, ma non sto facendo niente di magico, sto sfruttando una delle tante caratteristiche del sonno, che tutti quanti, dopo circa un'ora e mezza dall'inizio del sonno, andiamo in fase REM. Tutte le persone, tutto il mondo, dopo circa un'ora e mezza va in fase REM, ben inteso, tranne, per esempio, in una ampissima categoria di pazienti psichiatrici che sono i depressi, in cui invece il REM è solo in questi pazienti, si presenta molto molto più presto. Anzi, l'irruzione di questo sonno in queste persone è un segnale forte della patologia psichiatrica. Allora l'avrete capito, la soluzione del quiz è che abbiamo tutti lo stesso modo di perlustrare la stessa scena. Si moltiplicano i casi di marchingegni tecnologicamente avanzati che si ispirano a caratteristiche di funzionamento, diciamola così, di animali. L'ultima che vi racconto ora riguarda i robot sottomarini, quelli comandati a distanza con telecamere a bordo e spesso con strumenti per prelevare qualcosa durante le missioni. Sono molto usati nelle ricerche marine, nelle indagini su rifiuti chimici scaricati in mare, anche nelle ricerche petrolifere, quando si devono progettare o monitorare delle piattaforme. Questi robot incontrano delle difficoltà quando incontrano delle acque nelle quali c'è molta polvere in sospensione per i motivi più diversi. In breve finiscono in zone nebbiose e le luci delle telecamere non penetrano questi diaframmi, rendendo pericolosa la navigazione. La macchina può collidere con degli ostacoli e rovinarsi alquanto. Molti pesci hanno sui fianchi una linea di sensori che segnala loro delle variazioni di pressione nell'acqua, un dispositivo che utilizzano per individuare correnti e livello della profondità. Se stanno muovendosi appunto in zone profonde con luce praticamente assente, i sensori forniscono loro un sistema per percepire l'ambiente e i suoi ostacoli. Pensate all'acqua come a dell'aria, infatti di fluido si tratta. Se una portiera di automobile si chiude e voi siete nelle immediate vicinanze, sentirete un soffio d'aria, no? Adesso pensate a dei sensori molto sensibili, decisamente molto sofisticati. Anche chiudere una borsa genera uno spostamento d'aria, una piccola corrente di pressione. Questi sensori, e i pesci li hanno, sono in grado di percepire segnali debolissimi. Altra notazione importante: quando un oggetto si avvicina a un ostacolo, genera una pressione d'aria su questo ostacolo, d'acqua, e ne riceve pure in risposta un'altra pressione. L'idea quindi è di costruire sensori di tal fatta anche per i robot sottomarini. Douglas Jones dell'Università dell'Illinois li ha progettati, pare che funzionino anche se sono in fase di testaggio. Il controllo delle pressioni che si generano fra l'oggetto che naviga e l'ostacolo ha una parte del tutto analoga a quella delle onde radar che mandano un segnale nello spazio. Questo segnale incontra un oggetto, torna indietro e ciò consente di calcolare una distanza. Ovvio che quando la distanza scende oltre una certa soglia, chi comanda il robot può fermare la propulsione o deviare. Sarà bene tenere presente che queste apparecchiature non sono certo prodotte in serie come le automobili, quindi i loro costi sono elevatissimi. Anche la rottura di un faro può essere un danno di decine di migliaia di euro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Al Museo Tridentino di Scienze Naturali, siamo a Trento, si è aperta una mostra dedicata all'astronomia e alle imprese spaziali. Spaziale è il titolo della mostra. E adesso noi faremo un breve viaggio in questo evento, accompagnati da molte voci, spesso quelle dei curatori della mostra, parlando di pendoli, di forze centrifughe, di meteoriti, di pianeti, di Giove. Nell'atrio della mostra, inizieremo da qui, un cortile, si può provare la sensazione degli astronauti che hanno camminato sulla Luna. Tre palloni azzurri pieni di elio? Pieni di elio, che è un gas più leggero dell'aria. Per simulare quella che può essere la sensazione di camminare sulla Luna, dove la gravità è un sesto. Perché tre palloni? Beh, tutti noi abbiamo usato innumerevoli volte i palloni, i piccoli palloncini delle fiere riempiti di elio, e ci siamo accorti che se li lasciamo andare salgono verso l'alto. Questi palloni fanno la stessa cosa, con la differenza che sono molto ma molto più grandi, contengono più elio e quindi hanno una spinta verso l'alto superiore di parecchi chili. Significa che con un pallone sufficientemente grande, se lo tenessimo in mano, ci solleveremo in aria, il nostro corpo perderebbe, tra virgolette, il suo peso. Nel nostro caso i tre palloni forniscono una spinta complessiva di circa 40 kg, significa che una persona adulta di peso intorno agli 80 kg, 70, ne peserebbe metà una volta agganciato questi palloni. Quindi i tre palloni servono, a seconda dei pesi degli sperimentatori, dei visitatori, per dare la giusta sensazione. Certo, con la possibilità di cambiare i tre palloni, usarne uno, due o tre, possiamo far simulare a persone di diverso peso diverse sensazioni di gravità. Allora, qui abbiamo una piattaforma circolare che ruota e dentro ci sono tante piccole piantine. Esattamente. Questo ci può raccontare, descrivere come funziona la forza centrifuga. Usiamo le piante e la loro crescita. Per far capire l'effetto della forza centrifuga. Ok, come avviene? Allora, la pianta mentre cresce è soggetta a due forze, la forza peso che la spinge verso il basso e la forza centrifuga data da questo sistema messo in rotazione che la tenderebbe a far crescere verso l'esterno, piegata verso l'esterno, qualcosa che la tira verso l'esterno. Per opporsi alla combinazione di queste due forze, la pianta quindi cresce inclinata verso l'interno è inclinata, diciamo, al massimo a 45 gradi nella parte esterna, perché la forza centrifuga è zero all'interno e cresce man mano che ci spostiamo verso l'esterno. Infatti, se noi poi vediamo le piantine che stanno sul bordo del cerchio, vediamo che sono più inclinate rispetto a quelle che sono centrali, che dovrebbero crescere invece in maniera verticale perché soggette solo al peso. Queste qui vengono giù dal cielo. Lo so, tutti questi si chiamano satelliti. No, non sono meteoriti, non satelliti. Non mi ricordo più la differenza tra i meteoriti e i satelliti. Bisogna che te la fai spiegare, è importante, una differenza importante. Qui abbiamo il famosissimo pendolo di Foucault. Il pendolo oscilla e sotto gli gira la Terra. Però sopra il pendolo è attaccato a qualcosa che gira con la Terra. Perché non se lo porta appresso? Il pendolo di Foucault, inventato potremmo dire proprio da questo famoso scienziato francese nella fine del Settecento, mostra chiaramente quella che è la rotazione terrestre. Allora, è un pendolo diverso dagli altri, ma non per le sue leggi fisiche da cui è governato, quanto proprio per la lunghezza di questo pendolo. È proprio la lunghezza, quindi la distanza tra la base, la boccia del pendolo, che in questo caso è molto pesante, e il punto in cui è agganciato, che nel nostro caso sono più di 9 metri, che evidenzia proprio questa differenza tra i due punti in termini di rotazione terrestre. Il punto più vicino alla base ruota leggermente più velocemente rispetto al punto in alto. Sotto il pendolo chiaramente siamo noi che ruotiamo con questa velocità leggermente diversa, proprio perché c'è un pendolo, una lunghezza molto lunga che separa i due estremi. Cioè, in realtà ruota anche il pendolo, ma con una frequenza che è diversa da quella della Terra. Esatto, potremmo dire proprio così. Qui siamo nella toilette del museo, in una delle toilette del museo e quindi della mostra, che è però tutta tappezzata di fotografie di astronauti nella toilette dello shuttle. Astronauti e astronaute che per esempio fanno la pipì capovolti, perché le toilette dello shuttle sono ovviamente basate su sistemi di aspirazione che non consentono il disperdersi nello shuttle di cose sgradevoli. Questo rumore dello sciacquone al quale noi siamo così tanto abituati sullo shuttle sarebbe una tragedia, perché una delle cose fondamentali per il funzionamento dello sciacquone e la forza di gravità. C'è anche un planetario di gomma, gonfiabile, in questa mostra. Si entra e fra musiche suggestive si viaggia nel nostro sistema solare. Ottimo, questo non è un buco, ma è l'ombra di uno degli oltre 60 satelliti naturali di Giove. Noi ne abbiamo uno, che è la Luna. La Terra ha un satellite naturale. Giove ne ha più di 60. Satelliti naturali. Torno alla mostra su Astronomia e Spazio, inaugurata al Museo Tridentino di Scienze Naturali, per dirvi che sarà visitabile fino alla fine di giugno. Fra l'altro, il museo sta lavorando a un progetto molto bello, una nuova sede ideata da Renzo Piano, che consentirà a questa istituzione di diventare, io credo, uno dei punti di riferimento per la comunicazione e la divulgazione scientifica a livello nazionale, non solo una importante realtà regionale come è già ora. Il museo ha un sito internet, l'indirizzo è www.mtsn, che vuol dire Museo Tridentino Scienze Naturali, mtsn.tn, cioè Trento.it. Per le scuole ci sono anche le indicazioni sul sito per prenotare visite. Nel 1945 le armi nucleari fecero la loro apparizione nella storia dell'umanità. Da quel momento molti scienziati in tutto il mondo, anche fra coloro che avevano partecipato alla costruzione della bomba a Los Alamos negli Stati Uniti, nacque l'esigenza di fare qualcosa per limitare la proliferazione nucleare o addirittura per tentare di fermarla. Poi a un certo momento, nel 1957, nacque il movimento Pugwash, che prende il nome da una cittadina che credo sia in Canada. Lo chiedo conferma al nostro ospite di questa sera, Paolo Cotta Ramusino. È in Canada? Sì, in Canada, in Nuova Scozia. Allora, Paolo Cotta Ramusino, fisico, docente, ricercatore presso l'Università Statale di Milano, e lei, Cotta, è anche segretario generale adesso dal 2002 del movimento Paguash a livello internazionale. Esatto. Continuate a lavorare riunendo scienziati, tecnici, esperti, anche gente che ha a che fare con le trattative di tipo politico, in riunioni abbastanza riservate, e cercate di svolgere una funzione di consulenza e, come dire, anche cercate di spingere perché questo disarmo sia sempre una prospettiva che, insomma, pensiamo praticabile. C'è stata di recente a Milano la scorsa settimana una vostra riunione, no? Esatto, abbiamo convocato diverse persone esperti, specialmente nel settore diplomatico e politico, perché abbiamo cercato di capire che cosa è opportuno proporre alla prossima conferenza di rassegna per il trattato della non proliferazione nucleare. Che sarà a? Dunque, il trattato della non proliferazione nucleare è stato firmato nel 68 ed è entrato in vigore sì. Nel 1970. Ogni 5 anni si svolge a New York una conferenza di rassegna, cioè che esamina lo stato del trattato, la sua applicazione e lo sviluppo dei tre principali pilastri del trattato, che sono il disarmo nucleare, la non proliferazione e il diritto di tutti i paesi che non sono nucleari ad acquisire le tecnologie nucleari civili. E il tema sappiamo che è di estrema attualità sia dal punto di vista tecnico che politico, perché c'è tutta la vicenda iraniana. Ma vediamo un po' in sintesi di capire come siamo messi per questo disarmo. Prima di tutto, è una prospettiva effettivamente praticabile oppure c'è una contraddizione di fondo, insomma, che non si riesce a risolvere? Ma ci sono tantissime contraddizioni di fondo. La principale, direi, riguarda il disarmo nucleare, perché è vero che gli stati nucleari sono impegnati a disarmare, cioè eliminare le proprie armi nucleari in un tempo più ragionevolmente possibile, però non è stata fissata una scadenza precisa per questo disarmo. E quindi quello che succede è che ci sono ancora tuttora circa, diciamo, 23.000 armi nucleari funzionanti. Tantissime. Di cui la maggior parte sono possedute da Stati Uniti e Russia ancora. E questo crea un'evidente debolezza, mancanza di autorevolezza nel momento in cui si va a chiedere ad altri di non costruirle queste bombe. Certo, perché il trattato è un trattato ineguale, nel senso che stabilisce che alcuni hanno diritto di possedere le armi nucleari ed altri no. Però quelli che hanno diritto di possederle devono lavorare per eliminarle, e se non lo fanno la disuguaglianza di questo trattato, in fondo la partigianeria di questo trattato appare evidente, e altri paesi possono dire: bene, noi però non ci stiamo più. Ecco, in queste vostre riunioni, che sono, lo dico io, insomma, delle riunioni assolutamente tecniche, senza schieramenti, diciamo, ideologici, voi ritenete che questo problema sia un problema grave, insomma? Beh, è un problema grave, sì. Schieramenti, preferirei dire che noi cerchiamo di avere nelle nostre riunioni rappresentanti di tutti quanti i punti di vista. Noi abbiamo fatto noi stesse diverse riunioni, soprattutto nel 2008, tra esponenti iraniani e americani, abbiamo organizzato meeting in cui cerchiamo di mettere diverse parti insieme. Il nostro obiettivo è quello di ritornare ai principi del trattato, cercare di portare avanti questi principi nella pratica, e quindi in particolare di ottenere processi significativi nella direzione del disarmo. Un'ultima cosa tecnica ma importante: si dice spesso che la filiera di costruzione, quindi di gestione dell'uranio per le centrali nucleari per uso civile, sia una filiera che, se poi deve essere trasformata nella costruzione di bombe, beh, c'è una grossa differenza. Molti hanno questa opinione. Mi pare che sia errata. Sì, è piuttosto errata, nel senso che la separazione tra nucleare civile e nucleare militare è molto sottile. Se uno, per esempio, arricchisce l'uranio al 5%, beh, se vuole poi continuare ad arricchirlo al 93%, che è l'ammontare più o meno consigliato, tra virgolette, per costruire una bomba, beh, ha un lavoro da fare che in realtà è più confrontabile a quello di arrivare dall'uranio naturale al 4-5%. Quindi il problema effettivamente esiste, il nucleare civile è l'anticamera. E poi, cioè, se uno prende il materiale arricchito e lo inserisce nelle centrifughe che separano gli isotopi dell'uranio dell'uranio in un numero conveniente di volte ottiene la concentrazione di urano-235, quello che serve per le bombe, come la vuole. Dopodiché le bombe sono, non è proprio fatta, perché poi deve costruire la bomba che effettivamente esploda, deve avere tutta una serie di input tecnici, però non sono particolarmente complicate, visto che la tecnologia è vecchia di 60 anni, certo, ed oltre, 65 anni. Grazie Paolo Cotta, speriamo che abbiate sempre più influenza. Grazie a voi. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Barbara Gallavotti ha intervistato John Brockman. Ciao Barbara. Ciao Federico. L'ha intervistato al Festival della Scienza di Roma che si è appena concluso. Esatto. Senti, ci dici un po' chi è questo John Brockman? Allora, John Brockman può essere definito un impresario culturale. In realtà è una persona che vive alle frontiere della conoscenza ed è pronto sempre a cogliere gli spunti delle nuove idee. Quindi lui non è tanto una persona attenta ai singoli risultati scientifici, quello che lo interessa sono le implicazioni della scienza a largo raggio, e soprattutto, oltre a essere uno scrittore, è anche l'agente letterario di quelli che sono gli scienziati scrittori più famosi, e poi il fondatore di Edge, potremmo dirlo letteralmente come punta, ed è una fondazione che riunisce quelle che sono menti eccelse e ha lo scopo appunto di promuovere la discussione su temi culturali importanti. E l'ha incontrato a Roma durante questo festival. Io tra l'altro voglio ricordare che Nova, l'inserto di scienza del Sole 24 Ore, proprio a Edge 2 settimane fa, a questo sito internet, ha dedicato un'analisi, insomma, di una serie di temi recenti e interessanti che Brockman ha lanciato attraverso il suo sito. Ecco, incontrandolo a Roma, io per prima cosa gli ho chiesto di definire uno dei temi che gli è più caro, quello della terza cultura. È un'idea che fa un po' da guida nella scelta degli autori scientifici che poi lui decide di proteggere e tutelare. Va bene, allora sentiamo questa sua prima risposta. The way I defined the third culture in 1991 is... Nel 1991 ho definito la terza cultura come l'insieme di quegli scienziati e pensatori che attraverso il loro lavoro e i loro scritti stanno prendendo il posto degli intellettuali tradizionali nel portare alla luce il senso profondo della nostra esistenza, ridefinendo chi e cosa noi siamo. Nel 1959 il fisico e novellista inglese Charles Percy Snow ha scritto un famoso libro dal titolo Le due culture, nel quale si parlava della divisione fra scienziati e umanisti. Nell'edizione rivista del 1962 prediceva, tra l'altro, l'emergere di una nuova cultura in cui i letterati avrebbero studiato e fatta propria la scienza e l'avrebbero comunicata al pubblico. Questo non è mai accaduto. Invece è avvenuta un'altra cosa. Alcuni scienziati hanno cominciato a scrivere un nuovo tipo di libri, preferendo questo mezzo di diffusione delle loro idee alla classica pubblicazione di articoli su riviste specializzate. Questo è cominciato ad avvenire a causa di un motivo preciso e importante. La scienza stava diventando sempre più interdisciplinare e complessa. Ad esempio, se il filosofo Daniel Dennett avesse voluto pubblicare le sue riflessioni sulla coscienza su una rivista specializzata, avrebbe potuto scegliere solo una rivista di filosofia. Ma il suo libro, Coscienza, cos'è?, tratta temi di robotica, vita artificiale, intelligenza artificiale, psichiatria, psicologia. Tocca forse una decina di campi. Per esprimere queste idee nella loro complessità, non poteva farlo che in un libro. E quando il volume di Dennett è uscito, tutti si sono sentiti in dovere di comprarlo, perché tutti riconoscevano la sua importanza come pensatore. Quindi, molto rapidamente, ne sono state vendute 50.000 copie, che è abbastanza per definire un libro quasi un bestseller. E soprattutto il libro ha alimentato un dibattito sulla coscienza, rispondendo ad esempio alle posizioni di Roger Penrose e spingendo altri scienziati a intervenire con altri libri. Quindi ha avuto un forte impatto culturale. Linea di massima sappiamo che sono libri che hanno tendenzialmente un mercato un po' limitato, però forse in Italia. Effettivamente è così, non sono classici per evadere, però bisogna considerare che gli Stati Uniti possono disporre di un bacino di lettori enorme. Solo le persone che lavorano nell'università e che quindi sono sensibili a certi temi, a certe letture, sono 5 milioni. E qui viene fuori un bel problema dell'editoria quando si è in un paese piccolo e i costi di stampa di un libro sono bene o male coperti dalle prime 2000 copie un po' in tutti i paesi industrializzati, solo che certo qui da noi le 2000 copie sono quelle che mediamente si tirano. In un paese di 300 milioni di persone è facile che siano almeno 5-6 mila. E quindi questo porta anche a un grosso problema per i nostri scienziati. Supponiamo che uno di loro abbia una di queste idee rivoluzionarie da cui nasce lo sviluppo, creano veramente un grosso movimento culturale. Beh, è praticamente impossibile per lui riuscire a esporle, perché il bacino di lettori che potrebbe leggerlo in italiano è troppo ristretto e quindi difficilmente un editore può permettersi una pubblicazione di questo tipo. E qui c'è quell'altra famosa domanda che ti faccio, un po' retorica, però lo scienziato italiano potrebbe scrivere in inglese. E questo effettivamente non sarebbe un problema per lui, perché l'inglese è la lingua della scienza, però come mi ha confessato lo stesso Brockman, c'è un altro tipo di problema, cioè che gli americani, soprattutto gli americani, tendono a non voler leggere, a leggere poco, scrittori non anglosassoni. E quindi rimane il problema di mercato. E questo, nonostante il fatto, questa sorta di chauvinismo permane, nonostante il fatto che gli Stati Uniti stiano perdendo il loro ruolo di leader nel mondo della cultura. E infatti ho chiesto a Brockman, che in passato aveva definito gli Stati Uniti come culla mondiale della cultura, lo pensa ancora? I wrote that in 1991, I wouldn't write that today. Times have changed, we had... Beh, l'ho scritto nel 1991, non lo riscriverei oggi. Da allora, tra l'altro, abbiamo avuto 8 anni di amministrazione politica neandertaliana, cosa che ha alimentato una schiuma che ha soffocato le attività intellettuali e i media. Purtroppo negli Stati Uniti i media non sono più indipendenti come un tempo. Fanno parte di corporazioni e si sintonizzano con i rappresentanti del potere. I tempi sono cambiati. Oggi assistiamo a un rientro di cervelli in paesi come India e Cina, persone che lasciano le più prestigiose università americane per tornare nei loro paesi d'origine e occupare posizioni importanti. Inoltre, una singola compagnia indiana in un anno può promuovere la formazione di più ingegneri di quanti se ne formino negli interi Stati Uniti. Temo quindi che l'epoca della gloria americana sia passato e forse non tornerà per molto tempo. Però mi sembra che si tratti di un problema di attenzione e finanziamenti per la ricerca più che di stampa libera, considerando il caso della Cina. Sì, infatti, un po' entrambe le cose. Ed ecco cosa ci ha detto Brockman a questo proposito. That's true, but you need a country where people are... È vero, ma nonostante tutto la Cina riesce a creare un ambiente in cui c'è una forte motivazione a studiare e ad emergere. E questo è un elemento importante. In India, oltre a ciò, c'è anche una stampa indubbiamente libera, per non parlare del caso impressionante dello sviluppo della Corea. Negli Stati Uniti non c'è una pressione analoga. Le persone si accontentano di un buon pasto e poi evadono su Facebook. Non è più come un tempo. Il ruolo di Edge è particolarmente interessante perché è un vivaio intellettuale che riunisce persone molto selezionate e con un livello di educazione altissima. Secondo la definizione di Brockman, non sono semplicemente persone che sanno le cose, ma persone che possono modellare il modo di pensare della loro generazione. Però ci si chiede, è veramente possibile oggi che un gruppo di persone, anche persone elette, modelli il modo di pensare della propria generazione? Non sono piuttosto gli eventi a fare questo, anche l'insieme di molti individui, come accade nei social network? Right, well, when I'm talking about shaping the thoughts of a culture... In realtà le persone unite in Edge modellano il modo di pensare futuro inventando la realtà che poi tutti condividiamo, come ad esempio il sistema di calcoli in parallelo che ha reso possibile Google. Le invenzioni più importanti sono state quelle che non sono state percepite come tali e fino a poco tempo fa non c'erano neppure votazioni sulle invenzioni. Nessuno ha mai votato per rendere lecito l'uso del fuoco, per i transistor o internet. Eppure sono sviluppi che hanno creato enormi cambiamenti e tutti si devono a scienziati. Non vorrei mettere lì una domanda un po' interessata, ma per caso gli hai chiesto, visto che gli scienziati ormai comunicano, che cosa succederà di noi, giornalisti e comunicatori della scienza? Ovviamente gliel'ho chiesto, mi sono preoccupata moltissimo. Ah, ecco. Sì, ovviamente, ma la risposta è stata molto confortante. Bene, sentiamo. I think it's a critically important role. There's some very gifted... Penso che anche loro abbiano un ruolo fondamentale. Ci sono scrittori di scienza molto dotati che possono avere una visione delle questioni trattate dagli scienziati più ampia di quella degli scienziati stessi, perché è inevitabile che molti scienziati, scrivendo libri, si concentrino sui propri punti di vista e quindi c'è bisogno di altre voci, voci indipendenti che possono aggiungere molta qualità al dibattito. Questo era John Brockman. Ciao Barbara, buon lavoro. Ciao Federico, buonasera a tutti. Ci dicono che è più saggio correre a piedi nudi, ma dove? Questo ve lo spiega adesso Chiara Albicocco. In linea teorica, quindi, è più saggio, sarebbe più saggio. E in pratica, insomma, sentiamo. Con Kili sono in testa l'irlandese Messiti, il belga Van der Driesche, i marocchini Radi e Saudi. E c'è lo sconosciuto etiope di prima. Si chiama Abebe Bikila. È scalzo. Manca un chilometro al traguardo. E adesso Radi deve lasciare che Abebe vada da solo a vivere la fantastica notte. Già nel 1960 Abebe Bikila ci aveva visto lungo. Aveva ottenuto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Roma, alla maratona, correndo a piedi nudi. Perché le scarpe che gli erano state fornite dalla federazione il giorno precedente erano davvero scomode. E forse anche i podisti della tradizionale corsa a piedi nudi di Serra San Giacomo, che si tiene ogni ultima domenica di agosto in un piccolo paese del Salernitano, forse anche loro ci hanno visto lungo. È partita la corsa, il Milù in prima posizione, mando Angela Potatuc. I partecipanti caracollano letteralmente giù dal monte che sovrasta la cittadina a piedi nudi, in onore di San Sebastiano, protettore del paese. Aiuto, mi si ammazzano! La scienza dà ragione a questi arditi corridori. Noi siamo evolutivamente fatti per correre a piedi nudi. Un recente studio firmato da Daniel Lieberman della Harvard University ed è stato appena pubblicato su Nature dimostra che correre scalzi riduce i rischi di infortuni. Lo studio si è svolto confrontando la corsa di tre gruppi di individui: quelli che hanno sempre corso scalzi, quelli che hanno sempre usato le scarpe e quelli che sono passati dalla corsa con scarpe a quella a piedi nudi. E questi sono i risultati. Quando noi indossiamo le scarpe da ginnastica, tendiamo ad appoggiare a terra prima il tallone e poi la punta. Se le togliamo, invece, le prime ad appoggiarsi sul terreno sono proprio le dita dei piedi. In questo modo si riduce l'urto con il terreno e, a sua volta, la probabilità di andare incontro a distorsioni e infortuni. Ovviamente durante la corsa il momento più delicato per ossa, muscoli e articolazioni è quando il piede tocca terra. E chi si allena frequentemente e sulle lunghe distanze riceve continue sollecitazioni, pari tre volte al peso del corpo, e possono appunto causare conseguenze poco piacevoli come talloniti e tendiniti, che sono sempre dietro l'angolo e chi corre abitualmente lo sa. Proprio per questo motivo le moderne scarpe da corsa, inventate negli anni 70, sono costruite con materiali elastici, con gel, che servono appunto ad assorbire parte della forza di reazione. Ma allo stesso tempo impongono una posizione innaturale del piede, come dimostra appunto la ricerca di Lieberman. Non mancano ovviamente le considerazioni dal punto di vista evolutivo. Infatti Homo sapiens ha piedi più arcuati e quindi più adatti alla corsa rispetto agli australopiteci. E ciò dimostra un adattamento naturale dei piedi dei nostri antenati. E pensandoci bene, anche tutti gli altri animali si muovono con ciò che madre natura ha fornito loro. Ancora oggi alcune popolazioni tribali che vivono a stretto contatto con la natura camminano e cacciano a piedi nudi. Bene, detto questo, aspettate a buttare le vostre scarpe da tennis, a denudare i vostri piedi e a scendere in strada. Nell'esperimento gli atleti correvano in palestra, sui tapis roulant. Nulla, infatti, si dice nell'articolo del pericolo di beccare una buca sull'asfalto, i sassolini del parco o qualcosa sul marciapiede che qui sarebbe brutto menzionare. Termina qui la nostra puntata, mi raccomando accertatevi che i vostri piccoli sappiano la differenza fra satelliti e meteoriti, se poi volete una toilette spaziale scriveteci che vi diciamo come procurarvela, costa un po' però, sarà 3-4 milioni, insomma, civretta così. Alla prossima settimana!